come bianchi fiori catturavano la loro meraviglia. Mani intrecciate come corpi ad asciugare al sole il mare che creativa sale. Nessuno gli sembrava niente, nessun corpo nella mente, solo la simbiosi andare a fare. Profondi come il mare naufragando.